La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, la rosa purpurea torna puntuale come ogni sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui da Radio 24. Ce n'è tanto, tantissimo questa settimana, anche troppo forse, perché 16 nuovi film in questa settimana sono una sfida a chiunque, al buon senso forse prima di tutto e poi al mercato, al portafogli dello spettatore e anche a una scelta che non lasci fuori i film che meritano di essere visti. Noi li abbiamo proprio selezionati a nostro sindacabilissimo giudizio, ma insomma è il nostro, considerando che i film sono usciti prima del primo novembre, quindi già con qualche giorno di rodaggio alle spalle abbiamo anche già un'idea di come stiano andando le cose al botteghino, di quali siano i film fra quelli nuovi che hanno mosso qualcosa. Ma vi dico subito che a dominare gli incassi, ad esempio nella giornata del primo novembre, che è stata una giornata festiva, somigliava molto a una domenica in un certo senso, sono stati due film che erano già in sala, ovvero Thor e It, e poi dal terzo posto in poi si va con le novità del caso. Noi parleremo di tanti film che per motivi diversi hanno sicuramente un pubblico che è molto interessato. Parliamo per esempio di Mazinga Z, il ritorno del robot che ci ha accompagnato nella nostra, quelli della mia generazione lo sanno, nella nostra gioventù e adolescenza, o forse preadolescenza, anche se all'epoca i confini erano molto, molto labili. Parliamo di Saw, una saga che ogni volta comunque semina grandi successi. Parliamo di cinema italiano con il ritorno in sala dei Fratelli Taviani. Insomma, c'è sicuramente molta carne al fuoco. Vogliamo cominciare però da un film che ha una firma da premio Oscar, come quella di Michel Aznavichus, un attore come Louis Garrel, per raccontare una delle figure storiche, un totem assoluto del cinema di tutti i tempi e soprattutto di quello della Nouvelle Vague, ovvero Jean-Luc Godard, che diventa personaggio di questo film, appunto Il mio Godard. L'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Adorato tanto da Jean Renoir che dai Beatles. Era rispettato dal mondo intero. La Nouvelle Vague era lui, Jean-Luc Godard. Mi va di camminare all'indietro? Beh, cammino all'indietro. E io lo amavo. Avevo la fortuna di ammirare l'uomo che amavo. Non sarà per sempre l'amore, si intende, fra Jean-Luc Godard e Anne Wiesemski. Per sempre nella vita di Godard c'è solo Godard, declinato nella sua arte, il cinema, ma anche nella politica e nella critica, tanto più negli anni in cui si svolge il film di Michel Aznavichus, Il mio Godard, l'irredutable, formidabile, in lingua originale. Siamo in pieno 68, Godard viene dal fiasco della cinese e sembra voler cancellare la sua gloria nella Nouvelle Vague. Un Godard bastian contrario esce dalle memorie dell'allora moglie, che le ha concesse al regista di The Artist, e alla fine ha commentato che da una tragedia è venuta fuori una commedia, proprio l'obiettivo di Michel Aznavichus. J'avais pas l'envie spécialement de faire un film sur Godard, mais quand j'ai lu le livre. Non avevo l'idea specifica di fare un film su Godard, ma quando ho letto il libro mi sono innamorato della storia, dei personaggi e del contesto. Tutti questi mi davano la possibilità di toccare temi per me importanti. E c'era anche il modo di mescolare commedia e dramma. Senza voler essere presuntuoso, per me il film si iscriveva nell'ideale delle grandi commedie all'italiana. Anche se si ride e c'è una distanza dalle cose, si è toccati da questi personaggi e si vuole vedere cosa accade loro. Si ride quasi di Godard, che è cosa strana, e a lui, 87enne misantropo, non è piaciuto. È bella la ricostruzione patinata del mondo di allora, esclusa la parte in Italia, è meno bella la forzatura in commedia. A fare Godard c'è Louis Garrel, che lo fa volutamente insostenibile, ma probabilmente veritiero, molto sopra le righe. Per lui Godard è Dio, ha scherzato il regista, e l'attore che il mondo ha conosciuto con The Dreamers di Bertolucci, un film sul 68 che citava Godard, ci ha raccontato come ha incontrato questa divinità. Attraverso Jean-Pierre Léo, in un film che si chiama Masculin Femmina. È la prima volta che mi sono creduto innamorato del suo cinema, che sono stato affascinato dal suo cinema più che creduto in amore. Cosa ti affascina del suo cinema? C'è qualche cosa che l'illusione che amo quando entro in una sala di cinema, questa illusione non esiste con il cinema di Jean-Luc Godard, ti mente ne sveglia guardando i suoi film, ma non manca la bellezza, la grazia, ma non lotta in permanenza con quest'idea dell'illusione cinematografica della realtà. Tu come l'hai fatto il tuo Godard? Non so, come una composizione di pieno di cose, come un'idea che avevo di Godard actor in suoi film, che lui non recita mai in maniera realista, lui gioca come in maniera burlesca, con una composizione di parole che avevo sentito di lui, come lui parla, la sua maniera di essere, di essere sicuro di quello che lui pensa. L'ho fatto con un collage di pieno di cose per fare questo Godard di fizione. E questo era quindi il mio Godard, con le interviste di Chiara Pizzimenti a Michel Aznavicius e Louis Garrel, appositamente per La Rosa Purpurea. Un'altra occhiata alla classifica per poi fare un ponte sui prossimi film. Dicevo, Thor e It sono i due film che stanno ancora dominando il botteghino. Al terzo posto c'è Soul, ne parleremo fra poco. Al quarto La ragazza nella nebbia, film italiano di cui abbiamo ospitato il regista Donato Carrisi la settimana scorsa. E questo a dire che questo film si sta muovendo molto molto bene anche a livello di incassi globali, può essere una delle sorprese di questa parte di stagione per quanto riguarda il cinema italiano. Adesso, linea alla viabilità, fra poco proprio di cinema italiano parliamo con un piccolo film molto interessante, con aspetti molto interessanti come Gli asteroidi e con il ritorno di un binomio storico del nostro cinema, quello dei fratelli Taviani, fra poco. OneExpress.it. Pallet Network italiano che viaggia in Europa vi presenta La Rosa Purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea torna con cinema italiano, dicevamo, cinema italiano che ha alcune proposte piuttosto interessanti in questo fine settimana. Io voglio cominciare da quella più giovane, se vogliamo, no? Per il racconto, per il centro del racconto che se ne fa, quello di un terzetto di ragazzi della nostra provincia, di una provincia che è sempre più senza confini e sempre più senza speranze in un certo senso, e che si rifugia in qualcosa che sta dentro le persone più che stare fuori, che stare nelle strutture di questi paesi sempre un po' più uguali a se stessi. Stiamo parlando degli asteroidi, appunto il film di Germano Maccioni con Pippo Del Bono e Chiara Caselli a fare, diciamo, da attori senior, e poi Riccardo Frascale, Nicola Sbalotti, Alessandro Tarabelloni, che sono i veri protagonisti di questo film. Pietro ha perso il padre, è un ragazzo che si è chiuso un po' in se stesso, sembrano gli interessi più nulla tranne i suoi amici che sono Cosmic, un ragazzo un po' stralunato che pensa sempre allo spazio, appunto a questo asteroide che starebbe per colpire la Terra, e a Ivan che invece ruba candelabri nelle chiese per poi rivenderli e tirar su qualche soldo magari da reinvestire subito in droga. E in questo panorama le vicende dei tre ragazzi incontrano quelle di un uomo, appunto interpretato da Pippo Del Bono, che propone loro un colpo che può fargli fare il salto di qualità. Ivan, tu dove andresti? Mancano pochi giorni ormai. Secondo i miei calcoli l'asteroide precipiterà sulla Terra. Secondo i tuoi calcoli? Quali calcoli, Cosmo? Tu pensi che io mi diverta a far entrare quella gente? A farmi umiliare così? Ma non si può fare proprio niente. Se non facciamo questo colpo mi tengo tutto io. Boris Sollazzo, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori. Boris, allora, vedendo gli asteroidi, io sono felice di un film imperfetto, sicuramente, con qualcosa in disordine qua e là nella sceneggiatura, ma con una certa forza, con la forza intanto di dipingere i personaggi e di raccontarli e di definirli in maniera molto molto forte. E poi anche di un contesto, che questo contesto di quella che era una volta una forte provincia italiana, qui siamo nell'Emilia Romagna post-industriale, dove le fabbriche sono chiuse e anche ridotte a brandelli, i vetri spaccati, sono asilo di fantasmi e di ricordi, ormai non più di operatività, di operosità, di relazioni sociali. Ecco, le relazioni sociali mi sembrano il centro di questo film, le relazioni sociali perse soprattutto. Ma è una sintesi perfetta aspetta anche nell'imperfezione del film. Devo dire, non è così strano che un film del genere sia imperfetto, perché è un film che si prende i suoi rischi, è un film che cerca un racconto che non sia didascalico, cioè tanta provincia di un certo tipo di cinema italiano, da Ferrario a Farina, che si ostinano a raccontare qualcosa che va oltre quello che vediamo e oltre certi tipi di stereotipi, una provincia che è anche fantasia, ricerca di altro, che è alienazione e, se vogliamo fare un gioco di parole, desiderio di alieni, e lo fai attraverso dei bambini, come spesso capita in certo tipo di racconto della provincia americana. E c'è tanto di... non sbagliato, però forse fuori tono, no? L'overacting di alcuni attori, i tre ragazzi che forse sono squilibrati a livello di sceneggiatura, questo Cosmic che insomma nasconde il teatro, nasconde il ritardo mentale citando filosofi, citando appunto ipotetici asteroidi che dovrebbero arrivare, e forse puntando un po' troppo sulla sospensione della credulità. Però c'è anche un'immagine molto viva, molto forte, molto originale, una visione di Germano Maccioni che guarda al di là di una regia normale e normalizzante e cerca di andare a capire che cos'era la provincia ai tempi dei padri, perché questo è anche un film sui padri e sui figli. Uno sembra non averlo proprio il padre, un altro l'ha perso e l'altro non vuole essere suo padre. La provincia dei padri, appunto, la provincia di chi sognava un posto fisso, di chi sognava di farcela, e la provincia dei figli che sono doppiamente persi, perché non si riconoscono più nel luogo in cui stanno e non si riconoscono neanche nel futuro che gli altri sperano per lui. E Gli asteroidi è questo, è un film che cerca qualcosa di difficile da definire, che prova a raccontarsi attraverso un cinema che è diverso e che appunto non a caso ha le sue radici in un cinema italiano molto indipendente, in un cinema americano molto indipendente, e alla fine ti fa venire la curiosità di vedere il prossimo film di Germano Maccioni e di vedere dove arriverà questo sguardo, al di là del fatto che sì, ci sono delle smarginature, come direbbe Elena Ferrante, ma vive le smarginature quando vuol dire che c'è tanto talento, tanta voglia di raccontare, tante cose da raccontare, quindi va bene così. Sta per passare molto vicino alla Terra l'asteroide forse più grande di sempre a livello di quelli captati. Gli asteroidi, quindi, nei cinema italiani. Hai fatto bene, Boris, a ricordare Davide Ferrario, perché a me questo film ha ricordato moltissimo La fine della notte, il film del 1989 che di fatto rivelò Davide Ferrario, e si svolgeva, guarda caso, proprio in quelle terre piatte del nord, in quei paesi che già allora Ferrario aveva saputo dipingere quasi sognando, come dire, quello che sarebbe successo da lì a 30 anni. Noi a questo punto, prima di passare invece ai Fratelli Taviani, che raccontano tutt'altra storia, giochiamo insieme, ci prendiamo il nostro piccolo spazio per proporvi la prima traccia del film misterioso di oggi. Che diavolo è questo coso? Il lazzo di Estia ti obbliga a rivelare la verità. Qual è la tua missione? Chiunque voi siate, non sapete il pericolo che correte. Qual è la tua missione? Sono una spia. Ci sono dei sorrisi in regia, quasi che i nostri ragazzi in redazione siano stati troppo buoni oggi per questa clip. E comunque, se avete già indovinato il film misterioso, scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it col titolo del film e il vostro indirizzo per provare a vincere uno dei due Blu-ray che vi aspettano e il cui titolo sveleremo prima della fine della puntata. Parliamo invece di una questione privata e andiamo ai Fratelli Taviani, che, come dicevo, raccontano tutt'altra storia, pescano in uno degli scrittori che meglio hanno raccontato l'interiorità della resistenza, dell'essere partigiano, con appunto i loro romanzi. Stiamo parlando di Beppe Fenoglio, con il suo romanzo, in questo caso Una questione privata, che dà titolo anche al film, che segue le vicende di un giovane partigiano interpretato da Luca Marinelli sullo sfondo delle Langhe durante la guerra di resistenza. Il signorino Giorgio era un vero ballerino. Anche lui è partigiano. Perché dice che preferiva me a lui? Con Fulvia parlavate per ore. Il signorino Giorgio invece... Invece cosa? Giorgio! Giorgio! Giorgio! Che Hamilton? C'è di mezzo una ragazza. E c'è proprio di mezzo una ragazza, la bella Fulvia, appunto, l'amore di Milton, per la quale il protagonista intraprende una sorta di viaggio degno dei poemi epici di tanti anni fa, perché questo film, Boris, è un film che racconta in fondo l'amore ai tempi della guerra, ai tempi della resistenza, ma anche, secondo me, vuole raccontare come le due cose fossero seriamente interlacciate, seriamente connesse, che in fondo la guerra si faceva anche per amore. Un po' è così, è anche una guerra, e questo sotto il profilo della letteratura e del bellissimo lavoro uscito postumo di Fenoglio era evidente. L'Italia era un paese squarciato anche e soprattutto in nome dei sentimenti, no? In questo caso appunto tra badogliani e partigiani, c'era spesso una scelta dovuta ad amicizie. Sono tante le polemiche che si sono create su grandi vecchi magari della sinistra attuale che si sono ritrovati ad avere tessere di partiti fascisti o ad aver avuto passato da repubblichini. Spesso si arrivava a una giovane età in cui le scelte si facevano come si sceglie adesso il liceo, erano scelte importantissime, erano scelte drammatiche e spesso si facevano per amore, per amicizia, per senso di appartenenza che poco aveva a che fare con la politica. Era un paese allo sbando ed era un paese allo sbando soprattutto quello che raccontano gli italiani, cioè quello dal 43 al 45, era un paese senza punti di riferimento e quindi sì, è verissimo, e in questo il cinema degli italiani non poteva che in qualche modo incontrarsi con Fenoglio, che aveva intuito più di altri il piccolo mondo antico del iniziale dopoguerra, insomma, o dell'iniziale dopo armistizio. Una questione privata è anche però, secondo me, il riassunto di come sia diventato il cinema dei fratelli italiani, che se da una parte Con Cesare non deve morire dimostra ancora di essere innovativo, dimostra ancora di voler guardare altri tipi di linguaggi, dall'altra è un cinema gloriosamente, orgogliosamente contadino, è un cinema molto classico, un cinema che però soprattutto nella loro vecchiaia, quando ha incontrato la storia, che sia il genocidio degli armeni o che sia la guerra italiana, diventa anche troppo classico, troppo polveroso, anche se si avvale poi di attori come Luca Marinelli e Valentina Bellè che gli danno sicuramente una freschezza diversa, sono diventati molto più didascalici. È inevitabile fare un paragone con La notte di San Lorenzo e scoprire dei italiani diversi, scoprire dei italiani che non hanno tutta quella carica politica, metaforica, anche visiva. Qui è tutto molto più prevedibile, ci sono delle citazioni anche ingenue, in questo c'è tutta la parte, se vogliamo, pura dei fratelli italiani, no? La voglia di utilizzare il cinema quasi come fosse un jukebox, e penso alla scena appunto di Valentina Bellè e Luca Marinelli che sentono Over the Rainbow. E il film scorre perché Luca Marinelli è bravissimo, è in una forma smagliante e inevitabilmente anche con una sceneggiatura che mette in bocca a questi ragazzi forse frasi troppo fatte, frasi troppo complicate da rendere credibili, anche espressioni e azioni che sono troppo plastiche, e lui riesce a dargli umanità, riesce a dargli sudore e sangue. Dall'altra parte però, insomma, veramente sembra di stare a guardare un qualcosa girato 40 anni fa e nemmeno tra le cose più felici degli italiani. Certo è che due registi così poi in alcune scene, tre o quattro, riescono ancora a tirar fuori qualcosa di emozionante e qualcosa di bello, quindi non lo promuovo sicuramente, però non riesco a non dire andatelo a vedere, perché quelle tre o quattro finezze valgono comunque il prezzo del biglietto. Questa è Fulvia, sfollata da Torino per FIFA dei bombardamenti, che in fondo la divertivano, vero Fulvia? E questo, Fulvia, è il mio amico più amico, Milton. Te l'ho parlato ieri, ricordi? Militari insieme a Roma, fuggiaschi insieme dopo l'armistizio. È un dio in inglese. Milton. E questo era Una questione privata, adesso lì nella regia. Fra poco andiamo invece su quello che è il film che potrebbe, fra quelli di questa settimana, dare una scossone al botteghino, Soul Legacy, e poi ci aspetta il robottone. Mazinga Z. La rosa purpurea. Torna la rosa purpurea, abbiamo il capitolo adesso dedicato ai due film che presumibilmente potrebbero dare un pochino di lustro a un botteghino, come dicevo in apertura, dominato ancora dai film che sono in sala. Pensate che, tanto per dire una, It ha già raggiunto e superato i 13 milioni di euro di incasso globale, si avvia ormai a far concorrenza addirittura a Cattivissimo Me 3, che è il campione stagionale di incassi, cioè dei film usciti dopo il primo agosto, è quello che ne ha incassati di più, poco meno di 18. Ma dicevo, è partito molto bene anche Soul Legacy, che è l'ottavo capitolo della saga dell'Enigmista, una delle saghe horror che hanno maggiormente colpito, almeno negli ultimi anni, e che in quel suo legacy, in quella sua eredità, racconta un po' di quello che è il centro, il cuore di questo film. Il gioco è semplice, come tutti i giochi più divertenti. Volete pietà? Rispettate le regole. Identificata la vittima? Tessera di un puzzle. Ma Jigsaw è morto 10 anni fa. Non è lui. Non può essere. C'era questa sul corpo. La verità vi renderà liberi. Boris, un show che ormai, come dire, perpetua se stesso. Una delle saghe che stanno cominciando nell'horror almeno a diventare più lunghe e longeve. Siamo all'ottavo capitolo di questo film e ancora comunque più di uno zoccolo duro di pubblico che ama questi film, però insomma diciamo che qualcosina si è sfilacciato e si è perso nel corso degli anni. Beh, quando uno spettatore si avvicina ad un sequel con diffidenza lo fa di solito perché rischia di essere derivativo e soprattutto di sfruttare una vena che è già esaurita. Devo dire che non ha fatto sempre così, sarà perché era evidente fin dal primo che fu geniale e lacerante, insomma, anche nella grammatica cinematografica, perché insomma portava nella scrittura dell'horror quello che avevamo visto nel thriller con i soliti sospetti, era riuscito insomma a reinventarsi varie volte con alterne fortune, a volte insomma con film meno buoni, altri con film migliori. Non è sicuramente il caso di Soul Legacy, che in qualche modo fa l'errore drammatico di fare spoiler fin dal titolo e quindi di toglierti l'unico dubbio che poi invece cerca di perpetrare costantemente per tutto il film, e dall'altra parte perché perde anche forse lo spirito profondo di un film che fondava tutta la sua forza su tre cose: l'impossibilità di capire chi fosse il colpevole, nonostante facesse sospettare ai partecipanti al gioco e agli spettatori che fosse sotto i loro occhi, il fatto che il colpevole avesse una buona ragione per uccidere le persone, semmai ce ne fosse una buona, nel senso che fosse motivato da qualcosa di più alto della sete di sangue e una grande fantasia nelle morti delle vittime. Non c'è niente di tutto questo in suo legacy, perché alla fine addirittura c'è il predicozzo che addirittura ci vorrebbe far passare Jigsaw, quindi John Kramer, come un santo moderno, che non è assolutamente il senso della serie, che invece vedeva in lui un outcast che sì, cercava di rimettere le cose a posto, ma era comunque sempre un outcast, quindi troviamo addirittura una persona che è totalmente contraddittoria rispetto al passato. La fantasia nelle morti la troviamo solo dopo 1 ora e 20, con l'ultima vittima che effettivamente a livello visivo ha un eccesso spettacolare, ma tu sei ormai vinto dalla noia, e infine appunto tutto quel tipo di racconto che è la ricerca di una visione e un racconto anche di scrittura che vuole portare a un acme di emotività e di paura non si raggiunge mai. Questo perché è effettivamente, chiaramente e dichiaratamente derivativo, cioè si cerca semplicemente di ripetere, di copiare neanche il primo show, ma gli ultimi show, con questa dinamica del gioco anche piuttosto stanca, che forse era già morta nel terzo capitolo, e quindi francamente non solo è forse il peggiore di tutte e otto, ma probabilmente veramente non ce n'era bisogno, perché non c'è nessun tipo di ragione per andarla a vedere. Detto questo, è già in alto sul botteghino, e quindi vuol dire che questo zoccolo duro comunque si accontenta di rivedere determinate cose senza problemi. Ha detto che era un gioco. Potremmo anche vincere. E allora, Soul Legacy, per quanto concerne l'horror, che sta, come dire, comunque abbastanza dominando in questa fase della stagione, andiamo a giocare ancora insieme. C'è la seconda clip del film misterioso. Un tempo volevo salvare il mondo. È un posto di magia e meraviglia. Ma più ci si avvicina, più si vede la grande oscurità che cova al suo interno. La seconda clip del nostro film misterioso, se avete indovinato di che film si tratta, il titolo, il vostro indirizzo, larosapurpurea@radio24.it. Fra poco vi sveliamo il film, settimana prossima invece vi diremo quali sono i due vincitori. Questa sarà l'ultima battaglia di Mazinga. Mazinga, fuori! Motori in azione! È Mazinga Z! Mazinga Z! Questo mondo merita di sopravvivere o no? Mazinga Z! E allora, Boris, di che ti sei emozionato anche tu a sentire queste note, sebbene nella versione giapponese della sigla di Mazinga Z, Mazingo, diceva il signore che cantava, perché questo è il motivo per cui abbiamo atteso questo film, questo è il motivo per cui molti di noi, dico della nostra generazione o di chi anche in maniera abbastanza ampia sta fra i 30, 35 e i 50, 55 anni, perché sta andando al cinema a vedere questo film. Poi chiaramente entra nel vero, entra nel cinema, stacca il biglietto e si trova di fronte a un'opera molto complessa, a mio modo di vedere, forse anche troppo, sicuramente non per bambini, se non accompagnati, nel senso che comunque i dialoghi, la scrittura, la filosofia, la complessità anche delle situazioni e anche questo montaggio che è un po' asincrono, che va un po' di là e di qua in varie linee narrative, non è che siano proprio un accompagnamento semplice. Insomma, mi sembra un'opera, ho detto appunto, uscendo dal cinema, per la quale servono due lauree, una in fisica e una in filosofia, per poterlo comprendere appieno, oppure semplicemente bisogna essere molto molto dentro e adepti alla parte manga, alla parte più disegnata, più di fumetto, ai significati intrinsechi. Mi sembra un'operazione, ecco, che si rivolge più a quel pubblico lì. È vero, hai ragione da vendere, però forse più che aver bisogno di una laurea in filosofia e fisica, ti fa venire voglia di averle, perché è vero che anche quando ti sembra di incagliarti all'interno dei concetti di mondi paralleli, contigui, di appunto apocalissi particolarmente fantasiose, a un certo punto c'è proprio una scena in cui filosofia e fisica si uniscono in un materiale paraonirico, diciamo. È vero che lo fanno all'interno di una trama che però porta avanti anche delle piste estremamente elementari, come può essere semplicemente il fatto appunto dell'amicizia, dell'amore, del voler salvare il mondo, cioè le classiche dinamiche mazinghiane, se vogliamo, e manghiane, a cui ci siamo abituati proprio noi di quella generazione che è cresciuta con quel tipo di cartoni animati. E E questo forse è la forza, secondo me, di Mazinga Z, perché quel tipo di racconto estremamente complesso e che sono d'accordo, non può essere per bambini, forse neanche accompagnati, perché tendenzialmente rischiano di annoiarsi e rischiano di mettere in difficoltà padri e nonni che magari riescono a capire empatizzando con il racconto, ma difficilmente riuscirebbero a spiegare, quindi anche insomma per proteggere gli adulti cerchiamo di non farli andare. Però è vero che non ferma mai il racconto, non ferma mai la voglia di conoscere quello che ci sarà dopo. Inoltre c'è una scelta, secondo me, a livello estetico molto interessante, che è quella di non tradire un tratto artistico, un tratto creativo, un tratto narrativo, ma anche proprio un tratto e basta, che è quello degli anni Ottanta, è quello di decenni fa e che sicuramente risulta un po' antiquato, ma che ha ancora tutta la sua forza, perché poi Mazinga in questo senso non può essere quello che abbiamo visto con Harlock, che si può modernizzare perché acquista fascino. Mazinga è Mazinga, Mazinga è quel tipo di robottone, è anche quel tipo di aiutanti, è anche quel tipo di universo molto ingenuo, perché poi a livello emotivo si perde tutto quello che invece si acquista a livello scientifico e filosofico. Alla fine, secondo me, la sintesi è buona, la sintesi ti emoziona. Io ho visto tanti, forse anche abdicare al capire veramente tutto quello che c'era da capire, ma entrare comunque nel racconto e non posso che promuoverlo. Forse è vero, lo faccio perché il mio me bambino non me lo perdonerebbe mai una bocciatura a Mazinga, forse lo faccio perché è davvero un buon film. Stiamo subendo un attacco su vasta scala, energia fotonica! Non faremo in tempo ad attivare le difese! Oh no! Ci vediamo di nuovo, esseri umani! Guarda là, quello non è il valoroso Koji Kabuto. Kuragon. La creazione di un nuovo mondo è quello che desidero. Così l'umanità non avrà più speranze. E allora con Mazinga noi salutiamo Boris Sollazzo. Settimana prossima ti aspettiamo qui alla Rosa Purpurea. Ciao Boris. Alla prossima settimana e buon cinema. E linea invece alla viabilità, fra poco torniamo qui per parlare, a proposito di cinema e di bambini, di un festival che torna, diventato ormai un classico a Milano, si chiama Piccolo Grande Cinema, fra poco qui alla Rosa Purpurea. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta... Sono Nicoletta Carbone e ho una proposta da farvi. Venite con me a caccia di bufale? Allora dai, segnate in agenda La Bufala in Tavola, Radio 24, ore 12, ogni domenica con Nicoletta. Perché se è vero che siamo quello che mangiamo, non vogliamo mangiare bugie, fake news, leggende o mode, ma solo quello che ci piace, è buono e ci fa stare bene. Allora io vi aspetto, mi raccomando, a mezzogiorno, alla domenica su Radio 24. La Rosa Purpurea. Ed eccoci qua, quarta parte della Rosa Purpurea. Dicevamo, prima di occuparci del cinema da vedere in casa, del nostro film misterioso, eccetera, una parentesi è dedicata al cinema per bambini. Abbiamo detto settimana, questa anche al botteghino, con parecchie proposte che stanno anche andando bene. Capitan Mutanda, per esempio, che è partito molto forte, con incassi quasi paragonabili a quelli di della Ragazza nella Nebbia o di Saw, e anche altri due nella top 10, Monster Family e Vampiretto. Questo a dire che c'è sempre una grande fetta di pubblico, che è quella dei bambini, che ovviamente essendo accompagnati fanno anche gola a chi i cinema li gestisce. Però c'è un festival che da tanti anni a Milano porta insieme bambini e genitori al cinema, a vedere proposte belle, qualificate, innovative, con proprio un'atmosfera che è quella del festival, e si chiama Piccolo Grande Cinema. E con noi al telefono Silvia Pareti della Cineteca Italiana di Milano, che è un po' l'anima operativa e organizzatrice di questo festival. Ciao Silvia. Ciao Franco, buongiorno a tutti. Allora, un festival di cinema per bambini in una grande città, quali sono i caposaldi, come si accede a questo festival, qual è l'obiettivo, diciamo, dichiarato di Piccolo Grande Cinema? Allora, l'obiettivo dichiarato è quello di avvicinare il pubblico dei più piccoli a un'offerta di cinema che magari in certi casi può anche spiazzare, quindi con film che selezioniamo nei festival internazionali, nuovi, che non hanno magari, non sono veri e propri blockbuster, ma con curiosità, con entusiasmo, quindi crescere degli spettatori del futuro curiosi, aperti e appassionati. Le sale sono quelle del MIC, Museo Interattivo del Cinema, e Spazio Oberdan in Viale Vittorio Veneto, sono le sale della Cineteca Italiana. E tutto il programma si è pubblicato, si trova su piccolograndecinema.it. La modalità di accesso è variegata, quindi vi invito a, ci sono proiezioni, eventi a ingresso libero, altre abbiamo anche un appuntamento con un evento di charity, con Medicinema, quindi insomma sul sito trovate tutte le indicazioni. Assolutamente, a partire dalle date, io non le ho dette colpevolmente all'inizio, ma il festival è cominciato venerdì e finisce domenica 12 novembre, quindi insomma c'è molto tempo, c'è tutta una bella settimana di fronte per poterlo andare a vedere. Tra l'altro non mancheranno i red carpet per i bambini, che è una cosa che mi incuriosisce abbastanza. Sì, ci diverte sempre molto. Fantastico, perché loro sanno essere se stessi anche sul red carpet, quindi questo ci fa piacere. E Silvia, c'è però una giornata di studi molto importante, perché poi arrivano veramente studiosi di questo settore da tutto il mondo. Il 10, un grande convegno sull'alfabetizzazione cinematografica dei bambini e dei più giovani, e su questa che sta diventando una vera e propria emergenza, cioè quella di raccontare ai ragazzi che cos'è l'esperienza del film, del cinema e della sala cinematografica. Sì, è un appuntamento a cui teniamo molto. Nasce da questo progetto europeo di educazione all'immagine che abbiamo portato avanti in questo anno, e vogliamo, approfittiamo di questo convegno, è nato per fare proprio il punto su come, cosa si sta muovendo in Europa, su che cosa hanno portato anche le nuove tecnologie, il digitale, in più o in meno, per quanto riguarda tutte le strategie di film education ed educazione all'immagine dei ragazzi. Noi contribuiremo con questa piattaforma prototipo online destinata a ragazzi tra i 12 e i 17 anni che abbiamo messo a punto per le scuole, che lanceremo in questa conferenza, dove davvero avremo i massimi, posso dirlo, esperti da tutta Europa. È chiaro che qualcosa si sta facendo, Silvia, proprio tu sei, come dire, anche lì una delle anime organizzatrici di questa iniziativa della Regione Lombardia, Schermi di Classe, che porta i bambini e i ragazzi gratis al cinema, però insomma da lì bisogna poi partire per cercare di cristallizzare nella mente dei più giovani la differenza dell'esperienza cinematografica rispetto ad altri tipi di visione, per carità, tutti nobili, tutti giusti, ma il cinema è un'altra cosa, e questo mi sembra che sia anche un po' l'obiettivo di questo bel festival Piccolo Grande Cinema a Milano fino al 12 novembre. Grazie a Silvia Pareti. Grazie a voi, vi aspettiamo. E allora, questo per quanto riguarda il cinema e i più piccoli. Noi adesso invece andiamo al cinema da vedere in casa, quello soprattutto dell'home video, cominciando con il film con il quale avevamo giocato 7 giorni fa. Prima, seconda, terza, quarta, quinta. Queste 5 posizioni sono la base di ogni cosa. Ora ferma, sorridi, e quando sei stanca che inizi a fare progressi. E allora si trattava di Ballerina, film d'animazione uscito quest'anno, la scorsa stagione, e anche con buon successo, che sta avendo grande forza di impatto sulle bambine, ovviamente, perché il mito del ballo è un mito molto molto femminile in questo senso. Non a caso le nostre sono 2 vincitrici, Maria Margherita di Lucia, di Stesso San Giovanni, provincia di Milano, e Sabina Figurelli di Pavullo, provincia di Modena, che riceveranno a casa il DVD che ci facciamo raccontare anche nei suoi contenuti speciali da Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, è la storia di Felicie, che sogna di diventare ballerina, e di Victor, che si immagina grande inventore. Sono orfani in Bretagna, fuggono a Parigi per realizzare i loro desideri. E mentre la costruzione della Torre Eiffel procede, la Ville Lumière è veramente in piena trasformazione. Loro sono entusiasti, come la Parigi della fine Ottocento, e comprendono però che per vivere dei propri sogni bisogna impegnarsi veramente molto. Siamo in un mondo che sta tra Dickens e Step Up, tra Cenerentola e talent musicali tipo Star Academy. È un cartone animato franco-canadese che conferma lo stato di grazia industriale di questi prodotti, di questi paesi nel produrre animazione, anche quella canonica, commerciale e in maniera frontale per l'infanzia, come questo film. L'edizione italiana in Blu-ray comprende tra gli extra le interviste ai doppiatori italiani Sabrina Ferilli, Federico Russo e Francesca Michelin, che è presente anche nel videoclip della sua Tu sei una favola. E questo per quanto concerne il game della scorsa settimana. Un paio di segnalazioni dai film in televisione, in chiaro e gratuiti, a cominciare da quello che accade domenica, quando su Rete 4 alle 14.55 c'è un film da recuperare di Walter Hill del 1978, Driver l'imprendibile. Film che è folgorato da Le Samurai di Melville, da Franco Stello, Faccia d'Angelo. I personaggi sono ridotti a elementi di base della chimica del noir, sono funzioni narrative di purezza cristallina che agiscono senza perdere tempo in chiacchiere. C'è un autista cowboy che parla solo quando è necessario, per frasi molto concise, emarginato e fiero di esserlo, disprezzante, e che non si ammorbidisce nemmeno di fronte a un'Isabella Gianni che è al suo massimo splendore. Gianni è una femme fatale, astuta e manipolatrice. A parlare per i due personaggi c'è un poliziotto che esplicita come tutto in fondo sia solo una battuta, game originale di caccia. È un gioco che si fa astratto nella sua iratica perfezione ed è uno dei film migliori in assoluto di Walter Hill, maestro del cinema di genere americano. E per l'altra segnalazione invece ci spostiamo anche su una ricorrenza, tra l'altro, che è capitata proprio in questi giorni. Il 2 novembre del 75 moriva Pierpaolo Pasolini. Lunedì su Iris all'1:20 di notte, Uccellacci Uccellini. Sì, Totò e Ninetto si recano a sfrattare della povera gente da una cascina della periferia romana, e strada facendo si affianca loro un corvo, che è un intellettuale veteromarxista, che racconta di come frate Cicillo e frate Ninetto cercarono di convincere Passerotti e Falchi a fare amicizia. Dopo aver tra l'altro incrociato i funerali di Togliatti e fatto l'amore con una prostituta, i due iniziano a avere fame. Intanto il corvo parla. Insomma, si tratta di una favola filosofica in cui Pasolini tratta del suo tempo dal punto di vista di un intellettuale in crisi. Ci sono omaggi al cinema comico classico e una ricerca linguistica insieme avanguardistica e popolare, cosa che ne fa uno dei momenti più alti della carriera sia di Totò che di Pasolini. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, la prossima settimana. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, giusto il tempo per ricordarvi il film misterioso, ma che è stato poco misterioso sin dall'inizio, di oggi, con cui abbiamo giocato. Si trattava di Wonder Woman, due Blu-ray che aspettano i nostri ascoltatori, che sveleremo la prossima settimana. E poi per salutarvi, darvi appuntamento a sabato prossimo alle 18, come sempre qui su Radio 24, La Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è.